della Jerem, abbastanza corrotta. Thank you. bambino? Per la vita. Che cos'è? Ah, è cos'è? Ah, una bomba? Che è un? Sì, sì. Che è un? Ma lo perdo voi? Ma lei? Ma sei un uomo? Colonialismo, colonialismo, razzismo, razzismo, razzismo, razzismo.